Ritengo che sia un'utopia perché ci sono state delle opposizioni già prima ancora che i provvedimenti del governo venissero annunciati e perché tutte le volte che si è tentato di fare qualcosa di incisivo sulla spesa pubblica non ci si è riusciti. E la ragione per cui io sono pessimista però è più specifica, non è solo l'esperienza passata, la mancanza di coraggio della politica, eccetera, è il fatto che siamo arrivati a un punto in cui, se si vuole incidere effettivamente sugli sprechi, bisogna concentrare gli sforzi nei luoghi in cui gli sprechi ci sono, e dato che questi luoghi hanno un contenuto territoriale molto preciso, cioè sono alcune regioni del Mezzogiorno, alcune province del Mezzogiorno e molto più marginalmente alcune realtà inefficienti del centro-nord, tipo quella in cui mi trovo io in questo momento, che è la Liguria, anche il mio Piemonte ha dei problemi. Però il grosso degli sprechi è concentrato nel sud. Allora questo è un nodo politico che nessun governo ha il coraggio di affrontare perché creerebbe una spaccatura dei problemi di consenso, delle rivolte delle forze sociali, dei sindacati, delle organizzazioni locali, per cui si cercherà di spremere nei luoghi in cui la gente è più disposta a farsi spremere, cioè nelle regioni del centro-nord. Il problema però è che avendo queste regioni già razionalizzato molto, resta molto poco da spremere. Se lei ha ristrutturato un'azienda, non è che può fare ancora molto, si è già adottato le tecnologie migliori, si è già tagliato i rami secchi, eccetera. E questo è lo stesso problema che hanno le amministrazioni abbastanza efficienti del nord. Possono ancora fare qualcosina, ma poco. Le amministrazioni che possono fare di più però sono intoccabili per ragioni politiche perché sono serbatoi di voti di partiti importanti che appoggiano il governo, tutti e tre, peraltro, soprattutto.